Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità dal punto di vista di tutti gli animali. Il nostro intento è contribuire alla costruzione di una società non violenta e capace di futuro. Una società quindi molto diversa dall'attuale. È un proposito grande che richiede una forte spinta collettiva e noi ci sforziamo di fare la nostra parte. Questa settimana, per la puntata numero 564, parleremo di ricerca scientifica innovativa, di fiabe molto originali, di rock star e campioni sportivi, del legame che c'è fra scarpe, caffè, bistecche e foreste. Succede spesso, specie in questi tempi di ansiosa attesa di vaccini salvifici, che autorevoli scienziati e più semplici pubblicisti alzino la voce contro le leggi che disciplinano, senza certo proibirla, la sperimentazione cosiddetta scientifica sugli animali. Tutti o quasi tutti i ricercatori della vecchia scuola vorrebbero meno vincoli, incuranti dei cambiamenti avvenuti nella società nell'ultimo secolo nel rapporto con gli animali. Per fortuna viviamo in società democratiche, nelle quali anche gli scienziati devono confrontarsi con il resto della popolazione. Non siamo la società dello scientismo. I limiti posti all'uso degli animali nei laboratori sono il frutto di una crescita della consapevolezza sulla condizione animale e anche degli sviluppi scientifici intervenuti negli ultimi decenni. Sviluppi che a nostro avviso permetterebbero di mettersi alle spalle una pratica così barbara, così superata, come la sperimentazione su corpi altrui. Così però va il mondo e tuttavia, in mezzo a tante voci di scienziati che vengono dal passato, fa piacere sapere di persone e progetti che guardano avanti. La notizia, che riprendiamo da Corriere.it, è che due giovani ricercatori italiani, Domenico Gadaleta, dell'Istituto Mario Negri di Milano, e Edoardo Carnesecchi, che lavora in Olanda all'Università di Utrecht, hanno vinto il premio LASH 2020 nella categoria Giovani Ricercatori, grazie a progetti condotti con metodologie alternative all'impiego di esseri viventi. Il LASH Prize è un concorso internazionale promosso da 8 anni a questa parte dall'azienda fondata da Mark Constantine e mette in palio 250.000 sterline. Gadaleta ha partecipato con un progetto di studio sulla prevenzione dei rischi di danni e disturbi neurologici per l'effetto di alcune sostanze chimiche attraverso intelligenza artificiale e simulazioni computerizzate. Anche il progetto di Edoardo Carnesecchi è legato alla valutazione della tossicità per l'uomo di determinate sostanze. In entrambi i casi, big data e intelligenza artificiale sono stati utilizzati per fornire tutti gli strumenti sperimentali necessari. Strumenti ben più raffinati e proiettati nel futuro della sperimentazione animale. L'avvenire dunque in simili progetti, nonostante la forte resistenza opposta dalla maggioranza dei ricercatori, i quali sono riusciti finora a realizzare la classica profezia che s'autoavvera. Poiché sostengono che senza uso di animali la ricerca non può avanzare, ecco che non si investono risorse nelle metodologie alternative e quindi la ricerca sugli animali resta la più finanziata. Le cose però, come abbiamo visto, stanno cambiando. Con gli occhi che invocano, le parole si annodano. Con gli occhi che invocano, le parole si storpiano. A proposito di nuova sensibilità per la questione animale, possiamo dare uno sguardo anche in libreria. È uscito da poco un libro che merita d'essere letto e meditato, L'Assemblea degli animali, una novella selvaggia, pubblicato dall'editore Einaudi. Ne abbiamo già accennato in una passata puntata, citando un estratto pubblicato sul settimanale Robinson. Si tratta di una fiaba ecologista, nella quale gli animali si riuniscono in assemblea per salvare la terra da disastri compiuti dall'uomo. Ogni riferimento al collasso ecologico del pianeta e alla pandemia in corso non è ovviamente un caso. L'autore di questa novella selvaggia, come è definita nel sottotitolo, si cela dietro uno pseudonimo, Filelfo, ripreso da un umanista del XV secolo. Ma ciò nonostante, quest'autore è stato intervistato qualche numero fa dal settimanale Venerdì. Ci piace citare un paio di sue risposte alle domande di Raffaella De Santis come introduzione al libro, del quale torneremo comunque a parlare. Nel libro, chiede la giornalista, il Covid è una vendetta degli animali, escogitata dal re dei topi. Perché i topi fanno sempre la parte delle carogne? Il re dei topi, risponde Filelfo, è il più filosofo degli animali. Dice le verità più scomode sulla natura umana e sul destino dell'umanità, perché tra le molte specie la sua è quella che conosce meglio le nostre debolezze. Interessante la sua definizione di carogna. Il filosofo è anche una carogna? Da Socrate a Giordano Bruno, in effetti, spesso viene condannato a morte. Davvero, chiede l'intervistatrice, pensa che la peste possa essere una conseguenza del nostro agire? le infezioni zoonotiche, risponde Filelfo, lo spillover fra animali selvatici e uomo avvengono perché gli habitat naturali sono sempre più ridotti a causa di deforestazioni e coltivazioni intensive. Ma la malattia di cui si parla nella fiaba non è solo questa, è molto più antica. L'anima dell'uomo soffriva ben prima di questa epidemia, perché già soffriva l'anima del mondo, di cui quella umana è parte. La pandemia ci ha fatto prendere coscienza dei nostri errori? Lei conosce sicuramente la storia ebraica dei giusti che reggono il mondo. Se non ci fossero loro, avrebbe fine. Ma nessuno di questi giusti sa di esserlo, né di giustificare, semplicemente con il proprio lavoro e impegno quotidiano, lo scopo dell'umanità. Credo che quanto accade oggi stia suggerendo che cosa è giusto fare per la salvaguardia della natura. I lettori, giunti alla fine del libro, potrebbero avere una sorpresa, scoprendo chi sono i giusti. L'Assemblea degli animali di Filelfo è pubblicato da Einaudi. Capita sempre più spesso, nelle nostre scorribande settimanali fra le notizie riguardanti gli animali, di incrociare personaggi famosi. Stavolta tocca a una rockstar italiana e a uno sportivo. Partiamo da Pelù, che è una tartaruga marina passata dal rischio di soffocare dopo l'ingestione di un pezzo di plastica alla ritrovata libertà nelle acque di Manfredonia, in Puglia. Pelù ovviamente non è un nome dato a caso e chiama in causa Piero Pelù, rockstar fiorentina, che da qualche tempo ha sposato la campagna Tartalove di Legambiente, una campagna che si batte per la salvaguardia delle tartarughe della specie Caretta Caretta nel Mar Mediterraneo. È stato proprio il musicista a riportare in mare la sua omonima, salvata dai pescatori qualche tempo fa e curata al centro di recupero e soccorso di Manfredonia, gestito da Legambiente. Bisogna lottare contro l'inquinamento, ha detto Piero Pelù durante la liberazione dell'animale. La raccomandazione è quella di sempre. Non disperdere la plastica nell'ambiente perché poi finisce in mare e va a mettere in pericolo tantissimi animali. Proprio come la tartaruga Pelù, che ha avuto la fortuna di essere soccorsa dai pescatori e curata dal centro di Manfredonia. Ora l'abbiamo liberata e potremo seguire il tour della tartaruga rock del Mar Mediterraneo. Così Piero Pelù. You're number 37, have a look. She's gonna smile to make you frown. What a clown. more, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gonna play you for a fool. It's true, 'cause everybody knows she's a perpetrator. L'altra star della puntata è Lewis Hamilton, pilota che ha appena vinto il suo 7° titolo mondiale di Formula 1. Britannico, 35enne, figlio di padre di origini caraibiche e madre britannica, proveniente dalla working class, Hamilton è da tempo un beniamino degli attivisti animalisti, che hanno quindi festeggiato il suo successo. Eloquente il messaggio dell'associazione OIPA. Vogliamo ricordare a tutti, dice l'associazione, che Hamilton è uno di noi. Animalista, vegano, supporter di tante battaglie per la difesa degli animali e dell'ambiente. Vegano dal 2017, in diverse occasioni ha spiegato come questa sua scelta abbia portato benefici alla sua salute e alle sue performance. Di recente ha donato 500.000 di dollari per la cura degli animali vittime degli incendi in Australia e lanciato un appello per far chiudere le scuole di toreri e mettere fine alla corrida. Un campione, conclude OIPA, di generosità e di etica. Un rapporto del WWF mette in luce la correlazione fra la deforestazione in corso nel pianeta e i consumi di alimenti e non solo. L'80% della deforestazione globale, si legge nel rapporto, è legata al nostro stile di vita. Dal rito quotidiano del caffè, alla bistecca nel piatto, alle scarpe di pelle ai piedi. Le pratiche quotidiane sono un potente motore di distruzione della natura e della biodiversità. Il rapporto ha un titolo eloquente. Quanta foresta avete mangiato, usato o indossato oggi? Secondo il WWF, i consumi della popolazione europea sono responsabili da soli del 10% della deforestazione globale. Negli ultimi 30 anni sono stati deforestati, soprattutto in aree tropicali, circa 420 milioni di ettari di terreno, equivalente più o meno alla superficie dell'intera Unione Europea. Ancora, ogni anno, vanno persi circa 10 milioni di ettari a causa della conversione di foreste in terreni agricoli. Dobbiamo fermare il processo di distruzione delle foreste più preziose, dice Isabella Pratesi, direttore conservazione di WWF Italia. Oggi il 40% della foresta pluviale amazzonica ha già raggiunto il punto di non ritorno. La nostra responsabilità come consumatori è enorme e il percorso della certificazione di prodotti di largo consumo, così come la riduzione di alimenti dentro i quali si nasconde la deforestazione, in primis carne bovina e soia per mangimi, sono l'unica strada percorribile. Per contribuire a rallentare la deforestazione all'origine, lo ricordiamo ancora, anche dello spillover, il salto di specie dei coronavirus dagli animali agli umani, è il passaggio a un'alimentazione a base esclusivamente vegetale. È un passo, lo sappiamo, che spaventa molti. C'è chi lo ritiene esagerato, estremistico, chi ha paura per la propria salute e teme di perdere il gusto per la buona tavola, che è uno dei piaceri della vita. A questo proposito, e a scanso di equivoci, è il caso di chiamare come al solito in causa il nostro Gabriele Palloni, lo chef che dimostra sul campo, cioè ai fornelli, che la cucina vegana è più varia e più creativa di quella tradizionale, dalla quale lui stesso, peraltro, era partito all'inizio della sua carriera di cuoco. Gabriele, oltre a mestoli e padelle, maneggia con disinvoltura anche la penna. È uscito da poco il suo secondo libro, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Gabriele ogni settimana ci propone una ricetta legata alle notizie della puntata. Sentiamo che cosa ha preparato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. In tema di foresta, oggi rispolveriamo un classico della pasticceria tedesca. Ovviamente la rendiamo più buona, perché la facciamo senza derivati animali. Gli ingredienti per una tortiera da 20 cm di diametro per la torta foresta nera sono: per la base della torta 300 ml di acqua, 250 g di farina tipo 0, 50 g di fecola di patate, 120 g di zucchero di canna, 30 ml di olio di semi di girasole, 8 g di cremor tartaro, un pizzico di bicarbonato, 30 g di cacao amaro in polvere, della vaniglia e un pizzico di sale. Mentre per la farcitura 500 g di panna vegetale da montare, 400 g di marmellata di ciliegie, 50 g di amarene sciroppate, una tazzina di kirsch e 150 g di cioccolato fondente. Iniziate preparando la base della torta. In una boule capiente unite l'acqua, l'olio di semi, lo zucchero di canna, qualche seme di vaniglia ed il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente, setacciate la farina e la fecola. Aggiungete il cremor tartaro ed il bicarbonato. Unite le polveri nella boule con gli ingredienti liquidi e mescolate con una frusta, amalgamando bene il tutto. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Aggiungete il cacao amaro, setacciato, e montate ancora un po' con la frusta. Versate il composto in uno stampo di 20 cm di diametro, precedentemente spennellato di olio e spolverato con un velo di farina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30-35 minuti e lasciate raffreddare completamente. Nel frattempo scolate le amarene dal loro sciroppo e unite quest'ultimo al kirsch. Una volta freddata la base della torta, dividetela in tre parti per il senso orizzontale, ottenendo tre dischi dello stesso spessore. Bagnate i dischi con la bagna di kirsch e sciroppo e farcite due strati con la marmellata di ciliegie. Componete la torta chiudendo con l'ultimo strato senza marmellata. Montate la panna e rivestite tutta la torta. Con l'aiuto di un pelapatate realizzate dei riccioli di cioccolato. Decorate la parte esterna con il cioccolato. Infine decorate lo strato superiore della torta con fiocchi di panna montata, riccioli di cioccolato e le amarene. In primavera potrete realizzare la torta con ciliegie fresche. Servite con moderazione perché potrebbe creare dipendenza. Ricetta di Gabriele Palloni, concludiamo la nostra puntata numero 564. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento, come al solito, è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.